9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci in studio, Oscar Gerino torna a salutarvi, augurarvi un buon martedì 20 ottobre. E oggi decidiamo di adeguarci un pochino, non allo spirito del tempo, che è quello che fa scoprire ai ministri l'elogio del posto fisso, ma lo spirito del tempo è quello di cercare di leggere gli andamenti della crisi, il comportamento degli attori economici, anche alla luce non solo di quello che non va, e questo noi come giornalisti dobbiamo farlo abitualmente, come Radio 24 lo facciamo sistematicamente per quello che riguarda l'economia, e sistematicamente da un anno e oltre a questa parte abbiamo dedicato, come voi sapete, molto tempo e molta attenzione a cercare di capire, per esempio, le relazioni problematiche che intercorrono tra le banche, gli intermediari finanziari e le forze protagoniste della produzione, le imprese, le aziende medie, piccole, grandi, sul territorio, perché è una frontiera sulla quale si sono accesi molti scontri in relazione alle restrizioni di credito, agli impieghi problematici, in relazione alla necessità di cambiare alcune cose come Basilea 2 e i criteri esclusivamente patrimoniali e finanziari delle imprese per giudicarne il rating, cioè la credibilità, quando vanno a fare toc toc sulla porta di una banca e chiedono dei prestiti. Oltre a tutto questo che abbiamo sistematicamente fatto, come sapete, mettendo anche spesso in dubbio le versioni ufficiali date dalle grandi banche SPA e cercando di frugare invece sul territorio alla ricerca dei migliori comportamenti da parte delle banche che sono patrimonializzate meglio delle grandi banche SPA private e che si sono comportate meglio, come dicono le cifre dei loro impieghi, rispetto al totale della raccolta. Oltre a fare questo, oggi decidiamo di occuparci di un esempio, di una buona pratica che ci sembra anche questa da indicare all'intero sistema bancario, alle università. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'esempio di una banca che sta in tutto il nord, soprattutto nel nord-est, ma non solo nel nord-est, si chiama Ipo Alpe Adria Bank, c'ha nel 26 agenzie bancarie in Italia, 120 circa promotori finanziari, 36 agenzie di leasing, nasce specializzandosi proprio nel leasing come modello e dopodiché negli anni si radica sempre meglio sul territorio, fa parte anche di un grande gruppo, il gruppo Ipo. Ma perché ne parliamo oggi? Ne parliamo non solo per avere da loro l'idea di come si lavora sul territorio, ma soprattutto per una iniziativa che questa banca ha voluto assumere. Voi sapete che le banche, e oltre alle banche e alle fondazioni bancarie, fanno molto o tanto, dipende dai punti di vista, però hanno anche tra i loro obiettivi collaterali rispetto all'azione fondamentale che svolgono quella di sostenere iniziative culturali o iniziative diverse dalla valutazione iniziale del merito di credito, di dare o meno soldi. E tra queste c'è naturalmente anche la promozione e il sostegno a uno dei punti delicati per far nascere le imprese. Voi sapete che all'interno del sistema delle università italiane, non altrettanto bene che nelle altre università straniere, ma comunque anche da noi in maniera crescente negli ultimi anni, ci sono degli incubatori all'interno delle università che si preoccupano di passare dalla fase puramente teorica a interfacciarsi non solo col sistema delle imprese, ma ad aiutare gli studenti, i ricercatori a trasformare magari in brevetti, in idee concrete di impresa, gli oggetti delle loro ricerche. Dopo questi incubatori si apre però una fase nuova e diversa, quella in cui bisogna passare da una idea pura di impresa a qualcosa di concreto, cioè i primi passi dell'impresa. Ed è proprio a questa fase che si è rivolta questa iniziativa di cui parleremo oggi, bandendo una gara per un cospicuo sostegno e vedendo quindi di accendere una fase successiva dopo quella degli incubatori universitari per consentire a dei giovani dalle università o insieme alle università di essere già impresa la fase iniziale, di avere quel capitale grazie al quale poi l'impresa può veramente decollare, se è una buona idea ovviamente. E oggi abbiamo deciso di parlare di questo perché secondo me questo è un buon esempio che anche le altre banche dovrebbero assumere come punto di riferimento, senza più fare tante chiacchiere solo sul merito, l'università che non funziona. Probabilmente qualcuno come le banche può fare qualcosa di più in questa direzione con iniziative come questa. Dopo il pistolotto iniziale abituale da parte di Giannino, che d'ora in poi tace e fa solo le domande, ecco gli ospiti con cui approfondiamo questo tema di oggi. Abbiamo innanzitutto Sandro Ballerino, che è il vice direttore generale del gruppo Ipo Alpe Adria Bank. Buongiorno Ballerino. Buongiorno. E poi abbiamo, ve li presenterò dopo, il vincitore e il secondo classificato di questo premio, premio IPO Innovazione. Allora, prima del parlare del premio a cui dedicheremo tutta la puntata, però, dottor Baleno, ci faccia un secondo capire dal punto di vista degli andamenti della banca e del tipo di clienti particolari che avete voi, che non seguite naturalmente solo il leasing, anche se siete nati per quello, ma avete tutte le funzioni classiche della banca. Ecco, da questo punto di vista come stanno andando i vostri impieghi, la vostra raccolta in questo difficile anno? Facciamo un secondo una riflessione sulle regioni in cui siete attivi. Dunque, grazie dell'opportunità che mi dà di esprimere anche un osservatorio, che è un osservatorio di nord-est, ma sostanzialmente di distretti industriali. IPO è un operatore che lavora moltissimo con i distretti industriali e quindi con le piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese che oggi sono vessate da tematiche legate alla concorrenza, legate forse anche ad un credit crunch che è oggettivo, perché di fatto sono le aziende più piccole che non hanno ammortizzatori sociali e che non hanno possibilità spesso di avere ambienti di referenza di alte sfere che spesso ricadono in maniera un po' difficile sulla situazione attuale di mercato. Non la interrompo, ma è solo per far sentire al nostro pubblico, che già non è troppo abituale, perché di solito ci capitano a volte dei toni diversi, già non è troppo abituale, quindi sottolineo a chi ci ascolta che il direttore generale di una banca dica: beh, c'è un credit crunch, che è abbastanza oggettivo, perché di solito capita che venga negato quando non glielo chiediamo, ma la interrompo, vada pure avanti e non si preoccupi. Le piccole e medie imprese stanno soffrendo in questa fase, sono fasi difficili, sono le aziende più esposte sui mercati esteri, sono aziende che hanno pochi addetti, pochi dipendenti, hanno molto coraggio, però molto spesso devono avere un sistema bancario che dà loro fiducia nelle quotidianità, nelle loro sfide quotidiane. Il tessuto delle piccole e medie imprese, ma riguardiamo poi la fotografia di questa Italia, il 95% delle imprese è sotto i 15 addetti, quindi noi spesso leggiamo sui giornali quelle che sono le grandi realtà industriali in crisi o quelli che sono i grandi concern internazionali che presentano delle difficoltà, però la realtà italiana è una realtà di piccole e medie aziende. IPO Alpedria Banche, che è una banca di territori e di distretti, sta costantemente a fianco di questi piccoli e medi imprenditori. Come osservava lei, il leasing è stato un modello. Il leasing è in finanziamento a medio e lungo termine, quindi il modello ci porta anche alla valutazione del business plan. Business plan che non va dimenticato quando poi parleremo anche della valutazione, del premio diciamo di quelle che sono le caratteristiche delle aziende che presentano margini di premiabilità. Operare nel medio e lungo termine con le aziende significa chiedere all'azienda, chiedere all'imprenditore, perché l'imprenditore e l'azienda sono un connubio, quali prospettive hai. Le prospettive sono i mercati, le prospettive sono che tipo di governance, usando questo termine un po' abusato, ma cioè chi sei, come ti proponi nei confronti dei tuoi dipendenti, come ti proponi nell'ambito delle tue relazioni con le banche, con i tuoi fornitori, con i tuoi clienti, che tipo di politica, tra virgolette, aziendale stai adottando. E queste sono sostanzialmente le radiografie che dovrebbe fare un interlocutore bancario nel momento in cui si trova a parlare con l'imprenditore. Credo che questo sia un altro tema. Oggi le banche stanno riacquisendo una logica di dialogo. Io sono abbastanza ottimista in questa fase, dottor Giannino, perché è una fase in cui le banche e i sistemi stanno un po' convergendo. C'è molta curiosità nell'ambito del comportamento del sistema finanziario, c'è molta curiosità nel capire che cosa sta accadendo a livello internazionale e a livello locale. I due mondi sono paralleli, cioè oggi non si può parlare di una crisi italiana, si deve parlare di una crisi che ha, ahimè, riverberi forti in Italia ma anche all'estero. Non si può parlare di come uscire da una crisi nel nord-est, ma si deve parlare di un modello per uscire tutti insieme dalla crisi. Adesso, a parte certamente io ricordo a chi è a casa, che magari non è molto esperto di evoluzione del sistema bancario italiano, stiamo parlando di una banca un po' particolare che per parecchi anni ha avuto il praticamente tassi di crescita da record, e questi tassi di crescita da record, sto parlando di tassi di crescita superiori al 20% ogni anno, li ha avuti per 8-9 anni di seguito, non derivavano da spericolate ingegnerie finanziarie, giochi sui derivati, cioè cose che mettevano a rischio naturalmente la qualità del rischio di controparte per il prenditore, ma derivavano da un modello che andava abbastanza controcorrente rispetto a tutto il sistema bancario italiano, perché mentre il mainstream, come si dice, la grande corrente di fondo del sistema bancario italiano era quella di crescere comprando sportelli a prezzi sempre più elevati e moltiplicando i costi fissi dei redditi operativi, questa era una banca che cresceva con una scelta un pochino diversa, con un banchiere di prossimità dal costo basso che moltiplicava molto le proprie attività. Comunque, detto tutto questo, quindi è una banca un po' particolare, una banca molto solida e che all'interno del gruppo internazionale di cui è entrato a far parte è diventata la parte più remunerativa, quindi insomma una specie di eccezione anche per questo rispetto al fatto che in Italia di solito siamo quelli che appesantiscono i gruppi esteri quando si fa parte. Però veniamo al dunque. Allora, 2 anni fa la banca decide che bisogna fare qualche cosa per aiutare i giovani e le imprese. Io a chi è a casa dico: guardate, non stiamo facendo un grande spottone, noi stiamo tentando di spiegare come funziona una banca che mette a disposizione 150.000 euro per un'idea, perché poi seguiremo con altre puntate su questo per vedere se altri seguono o non seguono, cosa si può fare su questo, quindi non è uno spottone pubblicitario. Cerchiamo di capire, facciamo quindi un passo avanti. Perché 2 anni fa decidete che bisogna fare di più? Di solito una banca, oltre alle proprie funzioni economiche, magari voi stessi so che avete anche altre forme di collaborazioni con le università, quindi perché decidete di bandire una gara per decidere di fare una valutazione sui migliori progetti di imprese nella fase iniziale, presentati da chi? Dalle università stesse. Come nasce questa idea? 2 anni fa si poteva fare, come diceva lei, sì dottore, si poteva fare una politica di marketing, si poteva fare una spesa, si poteva fare una pubblicità, però noi viviamo il territorio, ecco, ritorno a questa frase che per noi è molto importante, noi viviamo costantemente il territorio, nel senso che i nostri attori sono i nostri interlocutori territoriali. Quale migliore occasione, anche se vogliamo opportunistica, nel senso di sviluppare un progetto comune che comunque impegna molto anche le nostre risorse, quale migliore opportunità? Quella di creare un premio alle migliori iniziative sviluppate poi da giovani, perché anche questo va detto, il connubio è tra l'innovazione e i giovani imprenditori che sono sul territorio, supportate dall'ambiente accademico, che molto spesso è distante, è lontano dalle logiche aziendali. Quindi la decisione della banca è stata un po' gioco forza della serie: siamo già presenti sul territorio, collaboriamo già con le piccole e medie imprese, valutiamo quotidianamente sul territorio progetti di start-up e iniziative, e portiamo questo nostro lavoro su un tavolo di confronto molto qualificato, che è il confronto con le università. E questo è stato doppiamente stimolante, perché è una conferma del nostro modello a cui crediamo molto, cioè essere presenti sul territorio col dialogo verso le piccole e medie imprese, ma nello stesso tempo è una ricerca poi di nuovi stimoli, perché naturalmente l'ambiente accademico ci dà assolutamente dei ritorni molto positivi di stimoli per la futura attività della banca, sicuramente. E quindi vi siete rivolti, diciamo, a 8 tra le più importanti università? Sì. Il territorio oggi è un territorio, se vogliamo, studiato così, perché poi l'attività universitaria non è altro che lo studio, una sorta di grande incubatrice di quello che sta accadendo. Quindi abbiamo chiesto a 8 università, che sono università importanti, che sviluppano oggi i talenti del futuro, di sviluppare dei progetti, portarli qui in banca, sederci attorno ad un tavolo ed esaminarli punto punto, esaminarli dal punto di vista dell'idea, della novità, del futuro di un'idea, ma soprattutto poi della possibilità e della sua fattibilità, noi l'abbiamo chiamato nell'ambito del regolamento industrialmente implementabile, però di fatto che cosa significa? Vuol dire che questa tua base teorica deve diventare una realtà imprenditoriale, cioè deve diventare un prodotto, qualcosa che tu metti sul mercato per poterlo vendere, per poterlo commercializzare, per poter fare un'attività profittevole. Ecco, quindi l'aulico mondo accademico deve un po' fare i conti con queste dinamiche che sono i business plan, sono i costi, i ricavi, il tornaconto, come si diceva una volta, e l'ambiente invece bancario deve ascoltare, in questa fase deve molto ascoltare, perché quello che accade fuori e quello che accade nel mondo accademico, dove ci sono dei validissimi personaggi, validissime figure, ci stanno definendo, ci stanno disegnando forse il mondo del futuro, e noi dobbiamo essere assolutamente ricettivi. Ora, io sono abitualmente un pochino critico nei confronti del mondo accademico italiano, che confonde, secondo me, non voglio fare generalizzazioni, ma nella media molto spesso confonde le cifre di stanziamento pubblico e il totale dei dipendenti messi in regola rispetto a contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli aggregati che vengono identificati per fare il traino della ricerca. Secondo me sono due cose assolutamente distinte. Non è il totale dei dipendenti pubblici a fare un paese con elevata qualità di ricerca, non è il totale dei dipendenti come percentuale più elevata su il totale dei denari spesi in università ciò che definisce un sistema di formazione più elevato. E quindi spesso ci è capitato qui di criticare l'interazione tra università e mondo produttivo, perché ci sembra che in Italia le iniziative, anche a volte quelle che si chiamano le start-up, che sono il modello di selezione interna degli incubatori universitari per progetti che possono diventare imprese, spesso se uno li va a esaminare vede che sono poi figli e parenti di professori, espressioni di cordata interna dell'università, idee che in realtà la possibilità di diventare impresa davvero con le proprie gambe, con un business plan credibile, con un piano finanziario credibile, non lo sono molto spesso. Cioè, molto velleitarismo, poco di quello che si vede, senza volersi innamorare di modelli stranieri, nei modelli anglosassoni, nei modelli americani, in cui magari la mano dell'aiuto pubblico è pressoché irrilevante, però dall'interno dell'università nascono poi le idee che 25 anni fa animarono Silicon Valley e poi hanno animato ondate di tecnologia successive. Negli anni, in questi due anni, in queste prime due edizioni, dando un giudizio che immagino sia diplomatico, perché non potete certo mettervi contro le 8 università con cui lavorate, ma insomma, che tipo di risposta avete avuto dal mondo accademico? Dovesse esaminarlo con l'ottica del banchiere? Ma intanto noi abbiamo un ruolo assolutamente marginale in quello che è l'orizzonte di queste iniziative che sono legate agli start-up o comunque ad interventi che sono molto più strutturati e sono molto più trasversali nell'ambito accademico. Noi ci riteniamo un po' artigiani nel mondo bancario, nel senso pragmaticamente cerchiamo di dare impulso ad un lavoro sul territorio. L'ambito accademico qui funziona un po' a due facce: da un lato deve esprimere. Questa è la cosa che mi coinvolge personalmente, perché quando io partecipo alla giuria, ormai queste due edizioni non danno una storia ma ci danno una traccia, mi chiedo e valuto molto attentamente quello che esprime l'università del territorio, nel senso che l'università propone un candidato, propone un progetto. Quindi, al di là di quelli che giustamente lei cita, quali velleitarismi o comunque polemica nell'ambito dell'organizzazione generale, io vado a vedere il risultato, cioè dico l'università propone un progetto, propone un modello. Siamo qui a valutare questo, l'efficacia dell'università di poter proporre questi modelli o questi progetti non fa parte del mio lavoro. Lo so, diplomazia, sì. No, ma lo capisco benissimo. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di questa seconda edizione di questo premio bandito da Ippo Alpe Adria, banca che attiva nel nord-est, non solo nel nord-est, in tutto il nord, dopo anni di crescita record, che ha deciso da 2 anni a questa parte di individuare con un sostegno concreto, 150.000 euro insomma, di prestito, non proprio 4 soldi, una fase successiva a quella della prima idea di progetti di ricerca nati o nelle università o grazie al sostegno dell'università, fase successiva, farla diventare imprese con un piano industriale, un piano finanziario, un piano di marketing e commerciale che siano già credibili, su questo aprire una gara chiedendo alle università di promuovere se stesse dei candidati a 8 università. E andiamo dunque, quest'anno che tipo di risposta c'è? Che progetti sono arrivati? Dunque, intanto gli attori, le università presenti oggi, e devo dire con molto interesse perché effettivamente rappresentano il territorio dove operiamo, sono le università di Castellanza, Padova, Venezia, Trieste, Udine, Verona e Modena e Reggio Emilia. Poi Brescia. Diciamo assieme a questi importanti incubatori c'è l'Associazione Italiana Private Equity e Venture Capital, che sono un partner che noi definiamo operativo, sono un occhio privilegiato sul mondo dell'innovazione e progetti delle imprese, l'acronimo è AIFI. Che tipo di progetti arrivano? Che tipo di progetti abbiamo esaminato? I progetti poi tra l'altro, dottore, vengono esaminati dalla giuria integralmente con la presentazione, quindi ogni università propone il suo progetto e ogni università vota naturalmente evitando il voto diretto sul proprio progetto, quindi è una votazione aperta proprio di dibattito, di confronto. Non è la banca che decide unilateralmente, insomma. Sì, non è il progetto che arriva, ci si chiude in sessione plenaria, e, no, c'è il confronto, c'è un tavolo, vengono fatte le domande, molto spesso io sono coinvolto personalmente, io poi tra l'altro mi occupo di crediti, quindi sono personalmente una persona curiosa e quindi su molti aspetti chiedo chiarimenti, chiedo delucidazioni. Quindi l'ambiente accademico parla sul tavolo. Questo è molto importante perché ci dà di nuovo il livello che vogliamo, cioè il livello del confronto, il livello della spiegazione. Forse questo manca anche in certi contesti. Le iniziative che abbiamo valutato quest'anno, vado con un ordine sparso cosiddetto. Abbiamo esaminato un progetto che riguardava Movable Eolic Generator, cioè dei piccoli generatori di energia eolica sviluppato dall'Università degli Studi di Udine, un Mod Finance sviluppato da Trieste che riguardava una piattaforma per arrivare ad una valutazione economica finanziaria delle imprese, un progetto Alfa da parte dell'Università Ca' Foscari di Venezia che riguardava un'applicazione particolare nell'ambito dei circuiti integrati, un prodotto PAN, è un acronimo Piante Acqua Natura, sviluppato dall'Università degli Studi di Padova, un Calicantus Entertainment che riguardava un'applicazione nell'ambito dei videogiochi online dall'Università di Castellanza e in fondo un progetto chiamato LTM elaborato dall'Università degli Studi di Verona che sostanzialmente era un progetto che riguardava l'ambiente della biotecnologia. E alla fine la giuria su quale tipo di progetto ha fatto convergere le sue valutazioni? La seconda edizione è stata diciamo attribuita, la seconda edizione, il premio all'Università degli Studi di Padova, quindi il progetto PAN, Piante Acqua Natura, in particolare il progetto è un innovativo sistema di fitodepurazione dell'acqua, torniamo all'acqua, con sorpresa, leggendo poi la nutrita documentazione si apprende che oltre un terzo dell'acqua trattata e consumata in Italia non è sottoposto a nessun tipo di trattamento. Il progetto PAN è un progetto che ha una base di sviluppo, una base di innovazione e riguarda proprio il trattamento in ambito sia industriale che civile, che pubblico, poi tra l'altro c'è tutto un risvolto legato al mondo del pubblico, quindi alle comunità, legato al trattamento dell'acqua. Mentre il secondo, a chi, l'ingradatore, a chi è finito il secondo? Il secondo è questo Movable Eolic Generator, cioè sono delle tecnologie che poi tendono a sviluppare un prodotto di consumo, chiamiamo di mass market, quindi di dedicato al consumatore retail, di piccoli generatori eolici, quindi non so, piccole pale eoliche che chiunque può acquistare e sviluppare all'interno della propria economia domestica. Questo anche è stato un bel progetto presentato molto bene. Uno dei requisiti, tra l'altro, che imponiamo nel nostro regolamento è la chiarezza e l'esaustività della presentazione del singolo progetto, quindi non solo l'idea scientifica, che molto spesso è molto prolissa e molto ricercata proprio venendo dall'ambiente accademico, ma si deve tradurre poi in un concetto di fattibilità, quindi anche la chiarezza è uno degli elementi fondamentali di questa analisi. Ecco, noi abbiamo con noi due rappresentanti dei team imprenditoriali che hanno partecipato a questo concorso, e abbiamo in particolare Maurizio Borin, che fa parte del team che ha vinto questo premio attribuito da Ipo Alpe Adria Banca. Ha vinto in quanto appunto hanno presentato il progetto PAN, candidato dell'Università degli Studi di Padova. Buongiorno Borin. Buongiorno. E poi Giacomo Battiston, che faceva parte invece, fa parte del team, quello sui generatori mini eolici, candidato all'Università degli Studi di Udine. Buongiorno Battiston. Ecco Borin, se dovessimo dire innanzitutto, nell'esperienza del team, come si è evoluto fino ad arrivare all'idea poi di questo sistema di fitodepurazione dell'acqua, quanto viene dall'ambiente universitario, dall'interazione che ciascuno di voi, molti di voi del team hanno avuto con l'università, quanto invece è un'idea completamente scissa da ciò che è possibile realizzare, pensare o ricercare all'interno dell'università, e si è poi invece appoggiata all'università per avere sostegno? Allora, l'idea è nata dall'università. Io sono professore universitario e qualche anno fa ho avuto un progetto di ricerca relativo a questa applicazione, a questa possibilità di applicazione della fitodepurazione. Assieme a un paio di giovani collaboratori, borsisti del dottorato di ricerca all'epoca, abbiamo sviluppato il sistema, abbiamo sviluppato un prototipo, ci abbiamo creduto, abbiamo fondato uno spin-off universitario proprio per dare ricaduta commerciale, pratica, applicativa a questa innovazione, che sembra un'innovazione semplice e banale, però richiede professionalità, impegno, validazione scientifica che solo l'università ci può dare. E dopodiché, allo stato attuale, se non ci fossero progetti o aiuti come questo che dà la banca, quando si esce dall'incubazione, dall'incubatore universitario, arrivata la validazione eccetera eccetera, nella sua esperienza quante buone idee è possibile far decollare davvero, farle diventare imprese davvero, e quanto invece per anossia delle risorse finanziarie non riescono a trasformarsi e a battere le ali? Io credo che la maggior parte sia destinata a camminare lentamente, non dico a declinare, ma a camminare lentamente, perché ci si trova proprio di fronte a questo scoglio di fare il grande passo che ci consente di diventare veramente impresa. Quindi c'è bisogno di questa iniezione esterna. E c'è bisogno probabilmente anche di una parte del credito bancario che si specializzi nell'esame di questa fase immediatamente successiva alla ideazione di che cos'è un progetto che può funzionare all'interno del mondo accademico, o comunque sostenuto dal mondo accademico o all'interno degli incubatori accademici, perché ovviamente si tratta di adottare un merito di credito che è molto knowledge intensive, punta molto sul capitale umano e quindi deve sapere immaginare l'operatività, la credibilità, la fattibilità, quanto può poi attirare private equity, capitale finanziario. Questa è un'attitudine che i banchieri non hanno così spesso, si dice in Italia. Lei che dice, dottor Ballerino? Sì, naturalmente quando sentiamo questi interventi l'ambiente accademico è molto fiero, giustamente, dell'idea, è molto fiero del fatto di avere delle risorse dedicate. Noi come operatori bancari dobbiamo fornire, se vogliamo, il corollario a questo pensiero, cioè il diventare impresa poi diventa forse un mettersi sulla strada insieme. E questo è molto importante, perché si esce un po' dall'ambiente dove si guarda al mercato spesso con una logica di incognita, si guarda molto a casa propria, cioè il prodotto, per poi arrivare a quello che è il mercato. Il mercato è dominato da attori, è dominato da concorrenza, è dominato da fattori di prezzo, da gusti per esempio, è dominato da mode passeggere. Quindi tutto questo è prettamente ciò che disegna l'interlocutore bancario, cioè il mondo del credito nel suo ruolo di osservatore privilegiato. Ecco, c'è una dimensione che però non abbiamo ancora valutato, che è la dimensione del rischio. L'impresa è anche questo, cioè molto spesso in ambito accademico si dà molta considerazione al prodotto, però ricordiamoci che stiamo parlando di impresa, quindi stiamo parlando di rischio. E il rischio fa parte della natura delle iniziative imprenditoriali. Questo è un altro elemento. Cioè, il passo successivo, secondo me, è dire bene, abbiamo creduto in questi progetti, abbiamo identificato dei nuovi imprenditori, e dopo però i nuovi imprenditori devono diventare attori. E questo forse è il ruolo che l'università deve trasferire definitivamente, cioè creare i nuovi imprenditori del futuro. Bene, io in questo momento lo interrompo perché ci sono le informazioni sulla circolazione stradale, mi permetto una battuta: è chiaro che se torniamo alle logiche del posto fisso è difficile che anche il sistema di formazione riesca poi a radicare l'idea del rischio, che da sempre certo è collegato alla voglia di intrapresa, e che è un po' diverso naturalmente dall'elogio del posto fisso, che per conto mio è fin troppo amato all'università italiana. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di questo premio innovazione che Ippo Alpe Adria Bank da 2 anni ha aperto all'interlocuzione di 8 importanti università del nord-est italiano, per attribuire un premio che dia concrete risorse finanziarie per fare decollare un'idea di impresa, non solo un'idea ma un progetto concreto che è già in grado di operare, e quindi le università propongono i loro candidati, si valuta con una giuria a chi attribuirlo. Stiamo parlando anche con i rappresentanti di chi ha vinto quest'anno il premio appena attribuito e col progetto numero 2 di cui ci occuperemo adesso. Abbiamo anche una telefonata, Alessandro da Treviso. Prego Alessandro. Sì, buongiorno a tutti. Io lavoro all'interno di un incubatore privato, in una nuova società che è nata da poco, 2 anni. E niente, volevo solamente dire che questo ruolo dell'incubatore privato sarebbe molto importante nel sistema paese, perché non è né nelle competenze della banca capire a fondo il mercato, né in quelle dell'università capire a fondo il mercato, mentre un incubatore privato è il modo migliore per poter permettere a un'idea di interfacciarsi col mercato e da un lato, e dall'altro di poter accedere alle risorse finanziarie di venture capital o piuttosto che banche. E, la vostra esperienza quanto tempo ha? La nostra esperienza è nata nel marzo del 2007, l'incubatore si chiama H-Farm ed è nato nel 2005. E che rapporti ha con la comunità, cioè voglio dire, i vostri rapporti col mondo del venture capital e dei fondi private equity è positivo oppure solo incoraggiante ma non troppo? È solo incoraggiante ma non troppo, direi. È solo incoraggiante ma non troppo, tanto è vero che noi guardiamo molto agli Stati Uniti per poter entrare in contatto con Venture Capital, e lì abbiamo aperto una sede a Seattle per poter dare questo sfogo, cioè trovare queste risorse che in Italia non è facile. Infatti nella mia stessa esperienza il tanto vituperato mondo americano su questo secondo me funziona molto meglio, non do giudizi di tipo generale, però l'attitudine alla ricerca sul territorio di idee, talenti in grado di, se opportunamente sostenuti dal capitale privato finanziario, anche con attese di alti ritorni, ecco, questo secondo me nel mondo della finanza e dei fondi italiani non è ancora arrivato a livelli di adeguata capacità, ne incontro abbastanza pochi ancora, ecco, di buoni esempi di questo tipo. Veniamo al Facciamo ancora una riflessione con i candidati sostenuti dall'Università di Udine, cioè con Battiston. Il vostro è un progetto, è un prodotto, anzi, non solo una nuova tecnologia, ma un prodotto concreto nei generatori mini eolici, se non sbaglio. Le posso fare una domanda concreta? Nel mondo del, mentre qui ci riempiamo tutti la bocca della svolta della green economy, quindi energie rinnovabili, il mix energetico nazionale, troppo combustibili fossili e così via, dall'altra parte l'Italia venne accusata su questo di essere in duplice ritardo. Da una parte gli incentivi pubblici sono molto cospicui, ma vanno per energie finte rinnovabili, vedi CIP 6, dall'altra grandi paesi europei che hanno fatto questa scelta molto prima di noi, penso per esempio alla Germania nel fotovoltaico, hanno dato tantissimi incentivi pubblici e poi sono diventati leader di tecnologie. Allora, le dico, una domanda concreta è: il vostro prodotto può stare sul mercato o da solo, per così dire, cioè, oppure ha bisogno di incentivi pubblici in assenza dei quali non sta in piedi, che è un po' il difetto, dicono molti critici, degli sviluppi poi di prodotti legati alla green economy? Guardi, noi riteniamo che nella situazione economica attuale il nostro prodotto possa stare sul mercato da solo, grazie soprattutto all'utilizzo delle vele al posto delle pale per la generazione dell'energia eolica. E grazie anche all'integrazione sul prodotto di spazi pubblicitari, riteniamo che di avere un forte appeal sia sulle imprese che sui privati, che ci permetteranno, anche in assenza di incentivi pubblici, di stare sul mercato. Chiaramente l'aggiunta di incentivi pubblici che ci sono per la vendita di energia elettrica all'ente nazionale permetteranno di avere un ritorno più veloce dall'investimento. Ma voi terrete duro comunque, sì? Sì, chiaramente sì, abbiamo già aperto un'impresa, abbiamo trovato degli investitori, anche se chiaramente il primo premio ci avrebbe aiutato ad andare avanti più rapidamente, però continueremo. Mentre invece ai vincitori, per così dire, quindi a Borin, da questo punto di vista, questi 150 benedetti che vi arrivano, 150.000, sono davvero il fattore decisivo o semplicemente un acceleratore per come voi state vivendo il vostro progetto? Io credo che siano un acceleratore. Acceleratore perché ci potranno mettere veramente in condizioni di accelerare, perché noi siamo già attivi con la commercializzazione di questo prodotto, quindi qualche realizzazione l'abbiamo già effettuata. Certamente, avendo a disposizione una cifra così significativa, potremmo studiare delle strategie di marketing e quindi essere più aggressivi nel mercato e di conseguenza avere più possibilità. E vedete che in entrambi i progetti nessuno dice senza di questo noi non diventiamo un'impresa, noi lo siamo già e semplicemente potremmo accelerare, che mi sembra un'ottima conferma del fatto che la banca voglia dare i propri soldi a idee che stanno già sulle proprie gambe per dire andate avanti meglio. Ancora una telefonata, Maurizio da Roma, brevissimamente. Maurizio, ci dica. Buongiorno, senta, io volevo fare una riflessione dettata un po' dalla mia esperienza personale. Io sono un fisico di formazione, ho fatto ricerca all'estero, in particolare in Germania fino al 2000 e poi sono ritornato in Italia. A quel punto ho dovuto trovare un lavoro nel mondo aziendale. Io una cosa che ho notato è che l'università in generale non riesce a vendere la propria immagine, non riesce a vendere i propri progetti, e dall'altra parte vedo invece che il mondo imprenditoriale, il mondo aziendale è cieco nei confronti dell'università. Io personalmente avevo provato a mettere in cortocircuito questi due mondi, però è difficile, perché è difficile, non si riesce a trovare, diciamo, degli interlocutori giusti. È difficile da parte del mondo aziendale capire le necessità universitarie, però dall'altra parte è pure vero che le aziende, in particolare le aziende italiane, rischiano poco nei confronti dell'università, non danno finanziamenti, non sono interessate a rischiare poche migliaia di euro a volte per progetti che possono avere anche un ritorno economico. Io confermo l'impressione, l'esperienza, non l'impressione, la mia è un'impressione, la sua è un'esperienza del nostro scrittore di Roma. Penso che alcune modifiche organizzative, su come per esempio mettere a frutto i brevetti e le idee da parte dei ricercatori, dando più spazio al ritorno per loro, potrebbero modificare, per quello che riguarda l'università, l'approccio a questo, mentre è vero, secondo me, il giudizio verso la comunità finanziaria, verso la comunità delle imprese private. Qui stiamo parlando a volte di cifre veramente ridotte per dare una forma organizzativa ai business plan e giudicare poi dopo con cifre che iniziano a diventare più impegnative, ma non di chissà quale ordine, per fare diventare imprese reali. Benissimo, abbiamo voluto parlare di questa esperienza concreta, vi ripeto, Ippo Alpe Adria Bank, seconda edizione progetto innovazione, quindi vincitrice quest'anno il progetto sostenuto da Padova nel campo dei sistemi di filtro depurazione dell'acqua, un esempio, un'idea concreta di come dare soldi concreti a delle idee che nascono all'interno dell'università ma che sono già imprese, e quindi una buona pratica, non solo lamentele da questi microfoni, come si dice spesso, nei confronti del mondo bancario. Io ringrazio tutti i nostri ospiti e interlocutori, ringrazio Pietro Lacorte in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, ora la linea al giornale radio, appuntamento a domani.